Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Di Irene Zerbini. E ben ritrovati dunque, ce l'ho schizzato, oggi parleremo anche di quello, l'energumeno, il suscettibile, il risentito, l'impermeabile. Di cosa stiamo parlando? È un po' una galleria di ritratti compilata da autorevoli psicologi, psicanalisti e scienziati, di quelli che si sfogano su internet, creando dei post, creando dei messaggi, creando tra l'altro una rabbia che ha una presa contagiosa quasi, perché al post messo in maniera così decisamente sopra le righe, subito qualcun altro replicherà e si crea quasi in un gioco, quasi in un esercizio sterile. È davvero così innocuo? Queste sono domande che ci facciamo. Questo effetto troll. A un certo punto qualcuno dice o scrive su un giornale una cosa che non rientra nei suoi schemi, o peggio ancora, qualcosa che lo schizzato considera un peccato imperdonabile, da quel momento se lo segna al dito. E questa gente comincia a scrivere implacabile, non molla mai la presa, ci torna dopo qualche ora. C'è poi quello suscettibile, cioè ci sono certi temi che non si possono toccare, perché se lo facciamo, secondo lui o secondo lei, si riconosce il nostro pregiudizio ideologico. Poi c'è quello che non ha una vita, lo possiamo dire, eh? Non ha una vita propria e quindi è lì puntiglioso, in continuazione, aspettando che esca un nuovo post e quindi se non arriva si innervosisce, si mangia le unghie. E parleremo in questa giornata in cui gli insulti, tra l'altro anche a livello istituzionale, insulti razzisti, si ripetono come fossero un giochino innocuo da oratorio tra ragazzi. Parleremo dell'effetto di questa cultura dell'odio che si diffonde. Dalle 9 in poi molti invece considerano assolutamente innocuo postare qualcosa anche di molto aggressivo dal punto di vista verbale. E voi come la pensate? Da che parte state? È un passatempo che vi impegna? È sempre più diffusa questa pratica, per cui semplicemente ci limiteremo a cercare di capire che soddisfazione dà, se porta a qualcosa, se è una pratica innocente o se invece potrebbe essere il terreno su cui costruire situazioni ben più gravi dell'aggressività verbale. Questo alle 9, dicevamo, parleremo invece alle 8:30 di italiano, l'avete sentito anche nel corso del giornale radio, deve essere solo tedesco, la lingua dei boschi e dei sentieri dell'Alto Adige, una polemica che dura da anni, ormai una svolta. Sembra che averla vinta apparentemente sono gli altoatesini di lingua tedesca, perché ci sarebbe un accordo con il governo, tra governo e provincia di Bolzano, per cancellare dai cartelli lungo le passeggiate dolomitiche i nomi in italiano. In tutto sarebbero 135, cioè pochissimi rispetto a quelli che sono stati italianizzati durante il fascismo, un'italianizzazione che era vissuta come una forzatura. Affronteremo anche questa pagina poco conosciuta della nostra storia e del nostro territorio. Prima però la rubrica Visti da fuori. Anche quest'inno è poco conosciuto, tranne nell'occasione delle partite di calcio. Buongiorno, benvenuta Gabriela Pentelescu. Buongiorno Irene, buongiorno a tutti. Confesso che mi hai commosso con queste prime note del nostro inno nazionale, che a me personalmente mi ricorda molto il dicembre del 1989. Con la caduta del regime di Ceausescu è stato cambiato l'inno, la stema del paese. Ancora dopo 20 e passa anni cerchiamo di fare dei cambiamenti. Per i romeni queste parole significano qualcosa. Prima di tutto, Gabriela, vorrei presentarti, sei la corrispondente per la Radio Nazionale Romena e per vari quotidiani qui in Italia. E in Italia, tra l'altro, Gabriela Pentelescu, che è una freelance anche per tante altre testate, ha scritto a lungo sulla situazione della comunità più numerosa in Italia, sono più di 1 milione infatti i romeni in Italia, per metropoli, era quell'inserto della Repubblica che faceva sì che si parlasse delle comunità straniere in Italia non con il solito approccio, diciamo così, ma con una conoscenza profonda da parte di coloro che le vivono. Tu, Gabriela, adesso, dopo che hai sentito questi, noi hai detto sono parole che per noi rumeni significano molto. Di cosa si tratta? Anche cosa si dice brevemente in questi no? È un testo scritto nel 1848, per farti un'idea. Si chiede al popolo di alzarsi, di non stare sottomesso, di fare dei passi avanti, di essere un popolo rivoluzionario. Nell'89 questo succedeva in Romania, mentre in tutti nei paesi circostanti, no? I regimi comunisti erano caduti, facendo spesso non sono stati dei conflitti in sangue, diciamo, sì, no? Sì, sono state sì. Delle rivoluzioni di velluto, eccetera, eccetera. Lì è stato sparso del sangue. Non dimentichiamocene che il dittatore è stato ucciso nel giorno di Natale. Tanti giovani sono morti sulle strade di Bucarest o di Timișoara, la città dove è iniziata la rivoluzione. Ancora non si sa la verità sulla rivoluzione, su questi morti, su questi caduti. Non cambia niente, praticamente si parla sempre dei processi, dei possibili colpevoli, però noi ci auguriamo che almeno tra 100 anni, se qualcuno sarà ancora interessato, forse la verità uscirà fuori. Ho sentito prima anche i temi che voi nel programma abordereste, no? Parleremo del tedesco. Non cambia niente, voglio dirti, praticamente per il modello quello dell'internet, dell'utilizzatore, se voi possiamo cambiare solo la lingua, anche il romeno sarà sempre qualcuno che avrà qualcosa da ridire su un articolo. E lo stesso sui doppi nomi, sui nomi che cambiano. La situazione di Bolzano va bene mantenendo le proporzioni, succede in Transilvania, dove ci sta una forte minoranza magiara e dove ancora ci sono dei conflitti dopo 89, tornando, no? All'89, dove ci sono delle forti comunità straniere, in questo caso, ripeto, magiara, perché ci sta l'influenza ungherese, allora i paesi hanno il nome in magiaro. E noi oggi ci soffermeremo su queste tematiche perché non sono esclusivamente linguistiche, dietro la lingua naturalmente c'è una storia ricca, importante, tradizioni e una richiesta di rispetto. Un tema come questo interesserebbe anche in Romania, ai miei ascoltatori potrebbe interessare perché puoi fare dei paragoni. Dunque, allora faremo un collegamento con la Radio Nazionale Romena e magari tradurrai con traduzione simultanea. Tu dove vivi ora, Gabriela Pentelescu, e da quanti anni sei in Italia? Vivo da 10 anni a Napoli, che per me rimane una città paradossale, però che mi ha fatto lavorare tanto, perché ho trovato una marea di temi da trattare. E non soltanto i temi, quello che interessa per esempio in Romania, interessa tutto quello che riguarda l'Italia, non soltanto Napoli, la politica, la vita sociale, l'arte, la cultura, tutto quello che riguarda il costume e la società. In genere i tuoi colleghi della stampa estera si trovano a Roma o alcuni a Milano, quindi la tua scelta è un po' controcorrente. Per pendolare per un bel po', ci sta anche un altro corrispondente che si trova a Roma, io ho fatto per un bel po' il pendolare e non ci vuole niente tra Roma e Napoli, un'ora. E quali sono i temi che hai trattato ultimamente per la Radio Nazionale Romena? Guarda, ho parlato per dei cosiddetti orfani bianchi, sono gli orfani dell'immigrazione, della situazione degli anziani italiani che sono accuditi dalle badanti romeni, queste donne che anche loro hanno lasciato a casa i loro anziani genitori. Ho parlato molto del made in Italy, delle contraffazioni, anche perché in Romania arrivano tanti finti made in Italy, se vuoi, o se no, proprio a volte via, via immigrati romeni che arrivano in Italia, che portano dei regali a casa che spesso sono dei prodotti contraffatti, no? I grandi marchi contraffatti che trovi, le borse, eccetera, le scarpe. Senti, andiamo con ordine. Hai nominato gli orfani bianchi. Di quale fenomeno sociale stai parlando esattamente? Guarda, gli orfani bianchi sono gli orfani da migrazione. I genitori vanno a lavorare all'estero, i bambini rimangono da soli a casa. Chi va si lascia spesso dietro a casa, dico, i figli affidati ai nonni, ai parenti o addirittura ai vicini di casa. Guarda, ci sono dei studi già fatti, secondo UNICEF sarebbero quasi 350.000, è una cifra che va ben oltre la cifra ufficiale accreditata dalle autorità romene, che si fermano a circa 80.000. Secondo l'UNICEF sono 300 i suicidi tra bambini, e secondo l'UNICEF sono 350.000 solo in Romania. Danno 80.000, sì, 350.000 quelli che hanno tutti i due i genitori che sono andati a lavorare all'estero. Sono poi altri 750.000 che hanno almeno un genitore. E questo è un aspetto della politica sociale italiana, per cui si ingaggiano badanti senza poi concedere molto agevolmente invece permessi di soggiorno anche per la famiglia. È un aspetto poco esplorato e decisamente drammatico della vita di queste signore che vanno all'estero per poter poi assicurare una rimessa, perché l'economia romena si basa molto naturalmente su queste rimesse, su questi soldi che vengono mandati dall'estero. Abbiamo parlato di signore, in realtà non sono solo donne coloro che lasciano il paese per lavoro, come tu ci hai spiegato con questo fenomeno degli orfani bianchi. Ci sono poi in Romania villaggi interi abitati solo da anziani. Questo è un altro aspetto paradossale di questo ingaggio delle badanti con queste modalità nel resto d'Europa. Esatto, mentre i figli di questi anziani vengono in Italia a lavorare, a badare anziani, degli italiani se vuoi, perché il welfare italiano è quello che è, e noi parliamo del ceto medio, no? Perché di solito quando il reddito è più alto, sai, ci sono le case da riposo, eccetera, però vediamo spesso in giro, adesso al mare, no? In tutto l'agosto, vedi sul lungo mare, dove giri per tutta l'Italia, le carrozzine dei signori anziani che sono vicino, hanno una badante, una donna, non lo so, non posso dire che è romena sempre, però sono delle straniere che stanno vicino a questi anziani. Mi è capitato di parlare con delle signore, con delle badanti romeni, che hanno accudito dei signori anziani, che mi raccontavano che una di queste, per esempio, di queste persone, un caso concreto, è stata fino all'ultimo momento della vita vicino a tre persone, e lei mi diceva: io sono morta un po' vicino a ognuno di loro. Perché quando tu passi un bel po' di tempo, stai 24 su 24, sai tutti, e poi la fine della vita di una persona lascia delle tracce non indifferenti nei destini di queste donne, che spesso purtroppo sono anche loro vittime dei luoghi comuni, perché torniamo sempre ai luoghi comuni. Hai fatto bene a sottolineare anche questo. Quanti sono i rumeni in Italia? Tra residenti e non residenti circa 1,5 milioni. 1,5 milioni, poi però spesso la cronaca italiana si concentra su quegli episodi, esatto, che di microcriminalità in cui si punta il dito soprattutto sulla nazionalità più che sulla modalità. Grazie per questo tuo racconto, Gabriella Pentelescu. Buongiorno, arrivederci e buon lavoro naturalmente. Grazie. Gabriella Pentelescu è la corrispondente per la Radio Nazionale Romena e per vari quotidiani. In Italia ha scritto per Metropoli, oggi è stata la protagonista di Visti da Fuori. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Und du sagst es zu ihr gehen, wo er sie liebt, schöne Avremmo potuto scegliere forse qualcosa che attinge e che ha a che fare con la storia del Tirolo, del Sud Tirolo per la precisione, e si è andati invece su questa proposta musicale dei Beatles che cantano in tedesco, grazie alla genialità, come sempre, musicale di chi lavora in redazione, Benedetta Acri. Grazie Alessandro Longoni, a questo regalo a cui ha partecipato anche il regista Gianmarco Ferronato. Ora, pronunciavano bene in tedesco i Beatles, non so, lo chiedo a Maxia Zandonai, buongiorno. Ma insomma, diciamo buongiorno, diciamo abbastanza. Hanno superato l'esame. Sì, come sempre. Maxia Zandonai è una giornalista, conduttrice Rai, chi vive in Lombardia la conosce forse più di altri perché conduce anche il TG regionale, originaria di Merano e naturalmente completamente bilingue. Saluto e ringrazio per il suo tempo anche il professore Sergio Gilardino, buongiorno. Buongiorno. Professore di lingua e letteratura comparata alla McGill University di Montreal e specializzato a Harvard, ma soprattutto uno dei detentori, dei custodi delle lingue minoritarie in Italia. Sgombriamo il campo da un equivoco, oggi parliamo di tedesco e il tedesco non è una lingua minoritaria, Maxia Zandonai. No, assolutamente, è parlata non solo in Germania ma anche in Austria e soprattutto, per quello che ci riguarda oggi, è parlata dalla maggior parte della popolazione del Sud Tirolo. Ora, c'è questa polemica che rimbalza sui giornali in questi giorni, dura da anni, è una svolta, e sembra che la provincia autonoma di Bolzano avrebbe raggiunto un accordo con il governo per cancellare dai cartelli, soprattutto lungo le passeggiate dolomitiche, i nomi in italiano. E questo ha portato molta gente a stracciarsi le vesti, e com'è possibile togliere i nomi in italiano, sui sentieri di montagna appariranno solo i nomi in tedesco, questo può portare addirittura a maggiori cadute nei dirupi, è stato scritto, quindi ci sarebbe anche una complicità del governo in caso di incidenti. Come stanno le cose, soprattutto come vengono vissute in Trentino Alto Adige? Se lo chiedi a me? Sì, Maxia. Beh, io in questo periodo sono a Milano, ovviamente, perché ci lavoro e ci vivo. Da quello che ho letto vengono vissute al solito con un po' di polemica, anche se è una questione ormai di vecchissima data, e tutte le volte che si va a toccare qualcosa che ha a che fare con in realtà i postumi del regime fascista, in Alto Adige scoppia sempre un putiferio. Poi probabilmente i toni sono un po' caricati anche dai giornali, perché se guardiamo i numeri si tratta di 135 toponimi su 16.735 coniati da questo politico, geografo, internazionalista, o se vogliamo essere buoni, irredentista, che si chiamava Tolomei. Facciamo un passo indietro, spieghiamo a chi non avesse letto in questi giorni, a chi non avesse familiarità con l'argomento, perché hai parlato di postumi, di scelte fasciste, cosa è successo durante il ventennio? Ma durante il ventennio è successo di tutto, diciamo che il Sud Tirolo, che gli italiani chiamano Alto Adige, è passato all'Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale e poi ha avuto, diciamo così, la sfortuna di incocciare nel fascismo. Tanto per fare un esempio, mio nonno, che era di origine roveretana, era cittadino austro-ungarico. Sotto il regno di Maria Teresa e poi di Cecco Beppe, dell'imperatore Francesco, aveva scuole italiane, aveva amministratori italiani, aveva un rispetto della minoranza linguistica italiana austriaca, quella del Trentino. Quando poi l'unica cosa, aveva in classe il ritratto di Cecco Beppe dell'imperatore Francesco, questo nel Trentino, che era ovviamente a maggioranza italiana, che era italiano, anche se stava sotto l'Austria. Quando invece l'Alto Adige passa, cadeau di guerra all'Italia, questi si trovano in breve tempo sottoposti al fascismo. Il fascismo cercò di italianizzare in tutti i modi una terra che era in stragrandissima maggioranza, persino Bolzano lo era, di lingua tedesca. E come fa? Che strumenti adotta il fascismo per italianizzare questa terra? Perché usa la violenza in tutti i sensi, anche non solo quella fisica, cioè mandando sulle squadracce, usando appunto le manganellature e quello che tutti dovrebbero sapere, ma usò anche una violenza psicologica enorme, cioè imponendo l'italianizzazione di quella terra. E qui arriviamo. Arrivò nel 23 a ratificare una cosa che era stata voluta peraltro da Giolitti, quindi non da un fascista, da un liberale, quella di cambiare i nomi a tutte le località del Sudtirolo e italianizzarle con vari metodi. Tolomei ci si era applicato già dall'inizio del Novecento. Ecco, arriviamo a questo Ettore Tolomei che tu hai citato, che era una sorta di plenipotenziario, chiamiamolo così, del fascismo, e viene incaricato di tradurre in italiano tutti i nomi tedeschi dell'Alto Adige. Si era già applicato a partire dal Novecento e come dire, con il benestare anche di Giolitti, però questa cosa trova compimento nel 23, quando viene ratificato con un decreto regio il prontuario di Tolomei, che traduce 16.735 nomi di località, città, ma persino appunto i nomi delle montagne, delle malghe, delle forcelle, delle crode in italiano. Tradurre, per modo di dire, nel senso che lui va a cercare radici latine, radici antiche, ma tante, oppure assonanze, oppure a volte fa delle sonore invenzioni che non c'entrano nulla. Facci degli esempi in pratica per capire la distanza, la forbice tra la traduzione e il nome originale in tedesco. Ma allora, quella che è un po' la pietra dello scandalo, e infatti non è stato trovato un accordo nonostante una commissione paritetica tra provincia di Bolzano e governo, è la famosa Vetta d'Italia, famosa solo per nome, perché però a scuola ci insegnavano, si chiama Vetta d'Italia. Eh sì, ma è stato Tolomei che aveva una fissa per questa montagna, tant'è che la scalò all'inizio del Novecento e poi disse che era stato anche il primo a scalarlo, che peraltro è una montagna abbastanza brutta e insignificante, cioè, però per lui era la più estrema a nord d'Italia. Non è che Tolomei doveva essere Simone Moro, cioè adesso non è questa no, la sua... No, per niente, infatti arrivò su accompagnato, disse che era stato il primo, non era anche vero, si mise a incidere sulla pietra il nome Vetta d'Italia. In realtà quella montagna si chiama Glockenkarkopf, che vorrebbe dire, se proprio vogliamo fare una traduzione, ma sì, è assurda, vuol dire cima a forma di campana. Cosa c'entra Vetta d'Italia con cima a forma di campana? Lo sa solo Tolomei, che ci mette una medaglietta su, dice questa è il simbolo dell'Italia e quindi lo chiama Vetta d'Italia. I tedeschi e quindi le persone che hanno sempre abitato nel posto, perché ancora adesso in Alto Adige, nella gran parte delle città e delle cittadine, dei piccoli paesi di montagna dell'Alto Adige, abitano, diciamo, più del 90% sono tedeschi, o anche di più, l'hanno sempre chiamata Glockenkarkopf, che non c'entra nulla con Vetta d'Italia. Però siccome ha un valore simbolico altissimo, come dire, su questo non è stato trovato un accordo. Dopodiché non è che Bolzano, che si chiama Bozen, anzi Pozen in tedesco, non si chiamerà più Bolzano, o Merano, che si chiama Meran, non si chiamerà più Merano. Si sta parlando di località che non sono luoghi abitati, sono malghe, sono forcelle, sono sentieri. Tra gli ascoltatori che ci scrivono mentre parli, Maxia, ci si dice: ma ormai siamo nel 2013 e perché ostinarsi in questa conservazione? È una zona turistica, si mettano anzi non solo l'italiano e il tedesco, ma addirittura anche l'inglese. Propongono. Ma possiamo tradurre tutto, nel senso che possiamo anche provare a tradurre Bolzano in inglese a questo punto, a parte il fatto che non cambieranno i nomi dei luoghi abitati, perché lì c'è nell'accordo che è stato fatto ancora dal ministro Fitto, si parlava anche lì c'è stato un problema tra lingua italiana e lingua tedesca, le località in tedesco vengono dichiarate Ortschaften, cioè luoghi abitati, quelli non cambieranno nessun nome. Ma perché chiamarli in lingua inglese? Il problema è scrivere il nome che viene storico di un posto, che la gente del posto ha usato per quel posto, e poi metterci magari malga o chiarissima il suggerimento, la tua soluzione. No, ma sarà così. Non è che, che tolgono il nome del sentiero, cioè gli lasciano il suo vero nome e poi ci mettono in italiano che cos'è. Lago Malga. Ora, professor Gilardino, secondo l'articolo 6 della Costituzione, la Repubblica Italiana tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Perché... E lei che ha fatto dei paralleli interessanti con le minoranze di vari posti del mondo, perché è così importante il riconoscimento di una lingua, di una minoranza, professor Gilardino? La lingua è l'identità profonda di un popolo. Questo ideale di avere che fa sì che l'italiano tipico debba essere una persona che ha rifiutato le lingue ancestrali, che ha obliterato il dialetto della sua mente, che parla solo l'italiano, è vetusta, è ora di cambiarla. La realtà è che siamo una nazione fatta di popolazioni molto diverse come origine etniche e origine linguistiche, e si tratta ora di decidere che cosa vogliamo essere, anche considerando il grande numero di nuovi arrivati che parlano lingue che si possono o obliterare secondo il vecchio cliché, oppure valorizzare e fare dell'Italia un paese linguisticamente molto più ricco di quanto non già sia. Quindi c'è stata, secondo lei, una soppressione delle lingue ancestrali e parallelamente l'Italia continua con questa inclinazione alla soppressione delle lingue anche che potrebbe valorizzare, che si inseriscono nel tessuto sociale, economico, scolastico, istituzionale, potrebbero essere una ricchezza anche competitiva, invece vengono messe sotto traccia, perfino nelle scuole. Ricordiamoci che in Canada ogni 2 anni si fa un referendum. E in questo documento per ogni famiglia si chiede che lingua si parla in casa, che lingua si parla al lavoro. Perché? Perché vogliono tutelare al massimo quelle zone dove c'è una maggioranza di persone che parla greco, portoghese, o italiano o cinese. Questa politica di riconoscere il proprio paese nella sua varietà linguistica non è tutelata dalla legge 482, che riconosce alcune parlate come lingue e disconosce le altre come non lingue. Questo è assurdo, non è l'obbedienza all'articolo 6 della Costituzione. Ma ci sono, c'è secondo lei una distinzione tra lingua e dialetto o una diversa dignità linguistica? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E ancora buongiorno a Sergio Gilardino con noi e a Maxia Zandonai, io sono Irene Zerbini. Per concludere su questa vicenda che appassiona, in Valle d'Aosta, Sestriere, ci segnalano, è rimasta Sestriere, dalla Valle d'Aosta uno ci scrive su questa mancata traduzione Sestriere, quindi sensibili anche al francese. Una volta che un nome è stato fissato, ci scrive invece Massimo, entra nella storia, e anche Bozen aveva un nome diverso prima di chiamarsi Bozen, e quindi è giusto che rimanga quello che usiamo attualmente. Queste alcune delle segnalazioni. Ci sono poi una serie di insulti che non sto a ripetervi perché sono impronunciabili, evidentemente non si trovavano altri argomenti. Se nel frattempo avete più tempo per digitare magari un sms un pochino più articolato del vai a, noi poi lo leggeremo. Per ora, Gilardino, torniamo a lei, professore. Lei ha fatto un parallelo interessante nel corso del suo studio con le minoranze linguistiche native, cioè di quelli che, con una semplificazione, sono stati chiamati indiani d'America, vivono in Canada, negli Stati Uniti. Lei insegna in Canada, lei ha avuto un'esperienza personale con le loro rivendicazioni linguistiche. E da lì ha maturato anche questo interesse che l'ha portato a studiare tutte le lingue minoritarie. E ci chiedevamo appunto la differenza tra lingua e dialetto. Che idea si è fatto? E soprattutto nel mondo anglosassone dialetto vuol dire variante. L'inglese americano, l'inglese britannico, l'inglese australiano sono dialetti della lingua inglese. Quindi l'uso della parola dialetto in senso restrittivo e denigratorio è un uso tipicamente italiano, che deve essere corretto. Le lingue quando vengono studiate, io sono stato anni con gli Inuit e i Cree, sono stato anni con i Walser e adesso è già da anni che mi trovo con i Provenzali, vivo con loro, studio la loro lingua da vicino, mi accorgo che queste lingue sotto sotto hanno nomi per tutto, anche concetti astratti. E di conseguenza ogni popolo, se viene studiato nella sua storia, la storia linguistica, dimostra una lingua che ha una varietà enorme. Sono arrivato a una conclusione che non ci sono lingue o dialetti, ci sono lingue ben conosciute e ben parlate e lingue poco conosciute e peggio parlate. L'italiano sta diventando una lingua poco ben parlata. Quindi bisogna stare attenti a fare delle divisioni arbitrarie. I popoli storicamente hanno sviluppato delle lingue per sopravvivere nei secoli. Queste lingue devono essere studiate nella loro integrità. Se io mi fido di quello che sento sulla bocca degli anziani nelle ultime parole residuali, ovviamente concludo che quella lingua non è adatta ad esprimere concetti elevati. Ma se io la studio a fondo, ben al di là dell'oralità, mi accorgo che ogni lingua può esprimere ogni cosa. Quindi la prima considerazione da fare è che i popoli, non ci sono popoli superiori o popoli inferiori, lingue superiori o lingue inferiori. Ci sono soltanto popoli che parlano ancora la loro lingua e popoli che non la parlano più. Ma lei ha parlato anche nei suoi studi delle conseguenze sulla vita di tutti i giorni? Socio-economiche, sì, proprio, che le rivendicazioni linguistiche, quando sono accolte, i benefici che possono avere accettare, riconoscere ufficialmente a una minoranza linguistica la dignità e la possibilità di parlare, di insegnare quella lingua nelle scuole, per esempio, che effetti ha osservato? Ma naturalmente là dove questa politica viene applicata di libertà di scelta delle lingue nel rispetto della lingua nazionale e delle lingue internazionali si ha naturalmente meno tensione sociale e i bimbi che da piccini imparano in casa una lingua ancestrale e nella società, nella scuola imparano un'altra lingua sono predisposti al multilinguismo. Gli italiani hanno paura delle lingue straniere e hanno paura dei dialetti. Perché? Perché ovviamente la cultura già da un secolo e mezzo dalla fondazione del Regno Unito è una cultura monolingue. Il monolinguismo è povertà, è isolamento. Il multilinguismo è dialogo con il mondo, è ricchezza, è possibilità di sviluppo sociale. Noi dobbiamo smettere di vedere nell'estero l'ideale, nell'Italia il peggio. Dobbiamo creare il meglio qui, liberare le lingue, far sì che coloro che vogliono continuare a parlare in casa il rumeno, il turco o il piemontese o il valzer possano farlo liberamente e nelle scuole locali possano insegnare anche quella lingua. I bambini possono imparare tutte le lingue, non c'è un limite al numero di lingue che possono imparare se vengono parlate spontaneamente. Quindi diciamo ai nonni e ai genitori che ancora parlano una lingua come il lombardo, il veneto, il piemontese, di parlarla ai piccini, di non aver paura di contaminarli, non li contaminano, li arricchiscono. Non è vero che i bambini che imparano un dialetto dopo non imparano più la lingua, è vero il contrario, che se vengono stimolati dopo parlano molto meglio anche le altre lingue. Ora, professore, tornando alla questione originaria dell'Alto Adige, c'è chi ci segnala tra gli ascoltatori una battaglia di retroguardia, quello del mantenimento del tedesco sui cartelli stradali, perché ci scrivono in un mondo globalizzato si deve invece favorire l'inglese e l'italiano, perché chiudersi nel proprio bozzolo, in sostanza questo quanto segnalato in diversi messaggi che ci arrivano all'SMS 349-238-6666. Cosa ne pensa? Ma il Tirolo non è un caso unico. In Scozia, per esempio, ci sono i cartelli in celtico e in inglese. In Canada, nel Quebec, ci sono cartelli in francese e in inglese. Bisogna ben guardarsi dalle reazioni eccessive. L'ideale è un mondo in cui ci sia una lingua veicolare, in questo caso l'inglese, una lingua nazionale per tutto ciò che serve la lingua nazionale, e il mantenimento dell'identità locale. Tutto ciò può convivere benissimo, anzi convive meglio quando è in questa varietà, in questa forma. Basta con questa situazione: o parli la mia lingua o non ti lascio parlare la tua. Parliamo tutte le lingue, scriviamo i cartelli ben chiari con scritte bilingue o trilingue, a seconda del caso. La Svizzera è un esempio molto bello di questa convivenza. Maxia Zandonai, questa vicenda che in questi giorni viene dibattuta sulle testate nazionali, che tipo di quanto è sentita in realtà in Alto Adige? Quanto è calda la temperatura su queste tematiche oggi? Ma io credo che sia sentita soprattutto dalle vecchie generazioni, cioè dalle generazioni che in qualche modo hanno vissuto il fascismo e gli anni immediatamente successivi. Secondo me i giovani stanno iniziando a dimenticare la sofferenza di quel periodo. Dopodiché a livello politico è un tasto sempre molto sensibile, perché sul contrasto alimentato in qualche modo, che c'è stato in passato ma che è stato superato con una politica intelligente, sul contrasto tra italiani e tedeschi, la politica ha campato molto in quest'ultimo secolo. Io vorrei dire solo una cosa: è vero, è giusto che in epoca di globalizzazione ci sia l'attenzione a più lingue, eccetera. I nomi propri rimangono nomi propri. Qui si sta parlando veramente di una minima parte. Tu hai detto 135 toponimi su un totale 1735 italianizzati, cioè dal Bontolomei Solerte. Esatto, Solerte. Io vorrei ancora, come dire, se posso brevemente, perché siamo in conclusione, tu conosci bene i Gaetano tempi. Gaetano Salvemini definì Tolomei il boia del Tirolo, tanto per dare una definizione così lieve. Tolomei nel 23 fece un discorso a Bolzano e promosse un manifesto per capire la violenza storica che ha subito quella popolazione, che si faceva promotore questo manifesto dell'italianizzazione dell'Alto Adige e che prevedeva la proibizione dell'uso del tedesco, l'italiano come lingua ufficiale, la chiusura delle scuole tedesche, lo scioglimento dei partiti tedeschi, il trasferimento degli impiegati italiani e degli impiegati allogeni, l'italianizzazione totale appunto della toponomastica, comprensiva dei cognomi delle persone, dei cognomi. Poi non ci sono riusciti, si sono fermati, ma anche i cognomi, cosa che hanno fatto peraltro in Friuli Venezia Giulia, che hanno tradotto i cognomi in italiano. Grazie Maxia, hai dato un quadro molto esaustivo, completo, di quello che a volte va sui giornali semplicemente come una guerra dei cartelli. In realtà c'è molto di più e vale la pena di approfondire. Torniamo tra pochissimo noi per parlare di insulti, di odio, odio vero, odio apparente, odio via internet. Prima però la linea alle news. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ci siamo aggiornati dunque, 7 minuti dopo le 9, dopo il notiziario. Continuano a pervenire sms al 349-238-6666 sulla questione dell'Alto Adige. Noi boicottiamo il turismo in Alto Adige perché dà fastidio essere stranieri in patria, dice l'ultimo. Ci chiedono poi dove insegni Gilardino per seguire più approfonditamente gli studi, le ricerche e quello che il professore che abbiamo intervistato fa con le minoranze linguistiche un po' in tutto il mondo, perché già lui ha una doppia identità, è italiano, insegna alla McGill University a Montreal, è appassionatissimo grazie al fatto di aver vissuto in Nord America, ci ha detto, delle lingue minoritarie in Italia, perché solo da là le ha capite e apprezzate, solo da là ha ricevuto i fondi per poi studiarle. Questo è uno dei tanti paradossi della vita. E poi continueremo questa discussione, se volete, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito potete scrivere all'email di Spunti di Vista, la trovate su radio24.it, perché noi ora ci concentriamo sull'aggressività verbale. Perché tanto odio? It's Friday. che primato. Forse non tanto ambito, però intanto lei ce l'ha. Si chiama Rebecca Black, questa è Friday, una canzone orrenda del 2011. Lo scrive e l'ha decretato il mondo di YouTube. Questa canzone, che ha 167 milioni di visualizzazioni, almeno fino a ieri, poi magari sono aumentati nel frattempo, è stata definita la peggior canzone di sempre. Qual è il problema, però? Che la canzone e la sua autrice sono state criticate ma per usare un eufemismo, sui social network e su internet, al punto che perfino la Arc Music Factory, in seguito al disappunto provato dalla violenza di questi post all'indirizzo della ragazzina Rebecca Black, questa cantante giovanissima, la Arc Music Factory ha proposto di rimuovere il video da YouTube perché sembrava stesse generando un'aggressività pericolosa. Ora, questo è un esempio, ma anche la mamma di questa cantante, la mamma di Rebecca, ha detto: attenzione, mia figlia è sconvolta da questi commenti. Ora, non ci fermiamo a parlare di cyberbullismo e degli effetti drammatici che a volte ha sulle menti più fragili, perché già l'abbiamo fatto in passato, ma ci chiediamo, noi adulti, noi che andiamo sui siti, per esempio, del Corriere, di Repubblica, per citare i quotidiani a più alta circolazione, del Sole 24 Ore, altri ne ho trovati ieri proprio sulla notizia dei cartelli da cui sarebbe stata tolta la versione italiana in Trentino Alto Adige, troviamo spesso una veemenza verbale, un livore, se non una rabbia, che inquieta, è nuova, quasi legata un po' inevitabilmente all'anonimato che internet offre, ma quasi legata a un'epoca dove sembra qualunque cosa possa suscitare l'indignazione più violenta, quasi da energumeno. Quindi si può insultare su un server e non si insulta solo il contenuto del post, che sarebbe il meno, ma anche la famiglia di chi l'ha scritto, l'istituzione per la quale questa persona lavora. In generale si insulta, non lo so come fare a riprodurvi adesso via radio questi post che ho davanti e abbiamo preso a caso. Dunque, non vogliamo stare in mezzo ai negri, è il minimo che si trovi in questi giorni in cui si parla di insulti al ministro all'integrazione Chieng. Ci sono delle cose purtroppo irripetibili, vai via a calci in quel posto, viva il duce, se quell'orango riceve attacchi e insulti un motivo c'è, e via libera alle budella, proprio, diciamo così, più che alla pancia. Si dice pancia, ma forse è il caso di scomodare qualcosa di ancora più intriso di sangue e altri elementi organici. C'è anche chi scrive in maniera compassata, c'è chi si definisce un fanatico, per cui spara su tutto ciò che si muove e anche su quello che non si muove. E poi ci sono coloro che mettono dei post molto rumorosi per farsi notare, per superare il livello di violenza che si è raggiunto con il commento precedente. Ma è così innocuo? È veramente solo un vezzo? È veramente solo mancanza di gusto, per esempio? Voi come la pensate? Potete partecipare all'800 24 00 24 e farcelo sapere, soprattutto farci sapere se è una delle attività in cui vi spendete. Francesco Aquilara, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Francesco Aquilar è un psicoterapeuta, è uno psicologo, e quindi chiaramente l'abbiamo scomodato anche per questa sua competenza. Ma soprattutto, Aquilar, lei ha scritto, da presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, ma soprattutto da vicepresidente dell'Associazione Europea per la Negoziazione e la Mediazione, ha scritto degli articoli, dei libri molto importanti su queste tematiche. Le rivolgo subito questa domanda: è una pratica, è un'attività così innocua? Assolutamente no, nel senso che il linguaggio della violenza può predisporre ad azioni violente. E in questo momento, poiché nella nostra società si assiste in Occidente ad una riduzione della speranza e ad un aumento del senso di impotenza e anche ad una mancanza di futuro soddisfacente in qualche modo, è chiaro che aumentano i pretesti per esprimere questa rabbia disregolata e servirebbe di fare un'azione, soprattutto con i mezzi di comunicazione di massa, che possa in qualche modo compensare questa disregolazione della rabbia che alla lunga può essere pericolosa e già lo è in molte situazioni. Quindi come potrebbero i mezzi di comunicazione di massa, radio, televisioni, giornali, disinnescare questo meccanismo o quantomeno abbassare i toni? Semplicemente fornendo maggiori informazioni, aiutando le persone a diventare più consapevoli delle proprie emozioni e in questo caso della rabbia disregolata e fornendo qualche indicazione di massima su come ricostruire un po' di speranza verso il futuro e ridurre il senso di impotenza che è alla base di processi come questi nel piccolo, che poi in forme più ampie possono diventare addirittura fonte di terrorismo o di fiancheggiamento ad attività violente. Quando il senso di impotenza è troppo forte, la reazione delle persone può essere quella di fare azioni violente semplicemente per esprimere questa rabbia. Ma quando poi, come dire, si punta il dito o si parla di queste cose, si viene tacciati di perbenismo, buonismo, essere ben pensanti. Anche questi sono nuovi insulti che non circolavano fino a qualche anno fa. Sono nuovi insulti che inizialmente avevano una loro logica, nel senso che per molti decenni nella nostra società l'essere perbenisti significava coprire sotto un manto di gentilezza una serie di violenze molto forti, di sopraffazioni, ma in questo momento invece dovremmo riportare un atteggiamento compassionevole nei confronti delle persone, perché altrimenti diventa impossibile la convivenza civile ed un progetto comune di miglioramento dello Stato nel quale ci troviamo. Stefano Balleari, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. Stefano Balleari, lei è in una posizione non facilissima oggi, nel senso che sappiamo bene quante polemiche abbia suscitato una sua decisione. Ora, lei è vicepresidente del Consiglio Comunale di Genova, vicepresidente del PDL del Consiglio Comunale di Genova. Sì, esattamente. E in questi giorni ha postato su Facebook qualcosa che poi ha rimosso e questo io l'ho trovato molto interessante, cioè lei l'ha postato e poi l'ha rimosso. Vorrei capire prima di tutto perché l'ha postato, era qualcosa sugli zingari, e poi perché l'ha rimosso, cioè cos'è successo tra un momento e l'altro. Tra un momento e l'altro è che in un primo momento ho fatto un'esternazione su un post vacanziera e subito dopo ho pensato che potesse essere fraintesa, nel senso che non volevo assolutamente, perché voglio dire non è assolutamente nella mia natura mettere cose razziste o cose del genere, ho pensato bene che potesse essere fraintesa, l'ho rimossa immediatamente. Guardi, esattamente, visto che non l'ha rimossa mio figlio, è stato su Facebook 22 minuti, le dico la verità. 22 minuti che sono bastati a suscitare reazioni, polemiche. Ma, presumibilmente io penso che sia stata molto fraintesa, perché chi mi conosce, le persone che mi conoscono personalmente, che conoscono la mia attività politica, sanno che io sono sempre connaturato da una certa pacatezza e da un modo di vedere le cose molto, molto rilassato. E si trattava evidentemente di una battuta dovuta al fatto che ero in spiaggia, stavo leggendo degli articoli che riguardavano la mia città e che parlavano di questi furti continui che sono stati perpetrati nel corso di pochi mesi da parte di zingari che sono stati arrestati, e mi è venuta in mente così una sciocchezza, l'ho postata senza pensarci più di tanto, devo dire la verità. Dopodiché, pensando potesse appunto essere fraintesa, l'ho rimossa, ma voglio dire, io l'ho detto subito quando poi nella serata sono stato raggiunto da un giornalista locale, della mia città, che appunto mi ha chiesto, ho detto sì, vabbè, voglio dire, mi sembrava proprio una battuta, l'ho trovata di cattivo gusto, ma niente di che, ecco, francamente. Lei è stato attaccato naturalmente anche in sede politica dall'opposizione, cioè in quel caso la maggioranza della sua città, ma qualcuno che si oppone a lei, ed è stato detto, attenzione, Facebook è un luogo pubblico come la Sala Rossa di Palazzo Tursi, che per su chi non lo sa, non sono assolutamente d'accordo, che è come l'aula del Consiglio Comunale. Ecco. Non sono assolutamente d'accordo su questo, non sono assolutamente quindi d'accordo. Quindi per lei Facebook è un luogo privato? Non è un luogo, intanto diciamo, io sui miei post sono visibili soltanto agli amici, non sono visibili al pubblico, intanto per incominciare. E tra questi amici ci sarà qualcheduno che ha pensato bene di informare i media, ma suppongo che fosse anche per una carenza di informazioni del periodo, ecco, capisci, a livello locale. Non credo che ci sia proprio nulla di politico in tutto questo. Poi, cioè, quindi lei dice non fosse stato il suo post sugli zingari e gli insulti, cioè adesso fosse stato postato in agosto, sarebbe passato. Io non ho postato nessun tipo di insulto, perché ribadisco per gli ascoltatori che magari non sanno cosa ho postato, io ho scritto, gli zingari sono come le meduse, inutili e fastidiose. E questo non è un insulto. Ma a mio avviso non è un insulto, è semplicemente una considerazione, perché voglio dire, in considerazione di quello che aveva appena letto, le sto dicendo, sì. Non lo vedo un insulto, tant'è vero che io non ho avuto nessun commento sul post, evidentemente, perché è stato rimosso subito dopo, ma anche successivamente non ho avuto nessun tipo di commento negativo da parte di nessuno, ecco, cioè proprio zero assoluto. Non ha avuto i commenti negativi, quindi sono arrivati, cioè queste polemiche sono allora forse una gonfiatura mediatica, un vezzo dei giornalisti. Io guardi, penso proprio di sì, perché sì, onestamente i miei post, quelli che sono stati pubblicati successivamente, non da me, ma da, diciamo, dal circuito di Facebook che ha seguito la cosa, non ho avuto uno soltanto di commento di tipo negativo. Ecco, riguardo invece ai commenti positivi che ha avuto, no, Stefano Valleari? Alcuni erano esagerati, onestamente, non li ho apprezzati. Non li ha apprezzati, però no, non aveva pensato al momento in cui lei postava, che essendo lei una persona eletta, magari con delle responsabilità verso anche chi la segue, perché l'hanno votata, quindi lei ha avuto. Avrebbe potuto suscitare con questo tipo di affermazioni questa veemenza e questo odio nei confronti degli zingari? Ma guardi, io conosco molto bene la mia città, naturalmente, sì, non conosco bene il resto d'Italia. La nostra città è una città che, non voglio fare demagogia né parlare di politica, comunque è stata sempre amministrata dal centro-sinistra, e che per una forma, come diceva poco fa il professore, di buonismo ha sempre cercato di dare una mano a determinate categorie di persone, cosa che peraltro, voglio dire, può anche avere la mia condivisione, sicuramente. I momenti attuali economici del paese e della nostra città in particolare sono cambiati sensibilmente, pertanto diciamo che si sta vivendo in un momento che è una guerra tra poveri. A questo punto qua alcuni cittadini si sentono, cittadini genovesi, si sentono diventati cittadini di serie B rispetto ad altri cittadini che, a loro avviso, meriterebbero di essere aiutati, ma successivamente a loro. Dopo, una volta si sono risolti i problemi economici. Senta, esatto, quindi chi ha postato, perché lei conosce bene la sua città, quindi chi ha postato tutti quei post di odio e sì, di... Non sono genovesi, secondo lei? Ma non erano post di odio, assolutamente. Quelli che sono comparsi sulla mia bacheca a sostegno di quello che io avevo affermato, ribadisco, ma con leggerezza, perché sono sincero, avendolo tolto subito dopo, evidentemente mi sento, diciamo, in colpa di aver fatto una cosa che potesse essere fraintesa, ma non ho trovato quella violenza di cui si parla, eccetera, come quei post che leggeva poco fa lei, nel senso, qualcheduno mi ha detto sì, hai ragione, effettivamente non sono, bisogna non chiedere sono scusa utili alle meduse e altre genialità. Però io, Stefano Balleari, apprezzo che lei abbia accettato di parlare con noi in sede pubblica, perché questa polemica sollevata dal suo post ha una caratteristica che non hanno quegli altri messaggi di cui invece ci occupavamo all'inizio trasmissione, cioè non è una polemica anonima. È una presa di posizione con tanto di nome e cognome. Ah, certo, ci mancherebbe altro. Ma io lei... sull'anonimato sono assolutamente contrario. Le lascio, le voglio chiedere però un'ultima cosa. Lei ha detto che questo Facebook, la pagina Facebook, la sua insomma, sì, di consigliere comunale di Genova, lei, per lei non è l'equivalente del consiglio comunale. Quindi lei no, sta dicendo che questa frase, zingare come meduse, inutili e fastidiosi, lei non l'avrebbe detta in consiglio comunale. Allora, intanto io ho due profili Facebook. Uno è un profilo personale, no? Che è un personale dove ci sono le foto mie, della mia famiglia, eccetera, eccetera, dove scrivo anche che cosa faccio in comune, diciamo. Poi ho un altro profilo che è Amici del consigliere Stefano, del consigliere comunale Stefano Baleari, che è un pochino più, diciamo, tecnica, pubblica, un pochino più specifica e diciamo diretta unicamente a questo tipo di attività. E naturalmente io la frase l'ho postata sul mio profilo personale. Quello della famiglia, diciamo. Esattamente, quello della famiglia. Quindi secondo lei non aveva quel peso, quella responsabilità, insomma, politica che avrebbe avuto una frase su quell'altro profilo Facebook. Sull'altro profilo potrebbe aver avuto una rilevanza di tipo diverso. Quella lì era un profilo personale, Stefano Baleari, conseguentemente, per quanto mi riguarda, è un profilo personale. A questo profilo hanno accesso soltanto i miei amici, che poi non sono neanche tantissimi perché ho soltanto 1500 contatti, non sono poi tantissimi, ma su questo la similitudine con l'Aula Rossa assolutamente non la vedo, ecco, perché come in Aula Rossa non c'è chi ha assimilato, questa sua azione, questo suo post agli insulti a Cécile Kyenge, al ministro. Ma è una roba che non c'entra assolutamente niente, cioè io mi sembra proprio che sia dovuto a un clima di fine estate in cui evidentemente un giornale locale ha ritenuto opportuno mettere una piccola nota, forse per un riempitivo di pagina, ecco, nel senso non la ritengo una notizia così sensazionale, sinceramente. Grazie per il suo tempo, Stefano Baleari, vicepresidente del Consiglio Comunale di Genova. Anche le vostre opinioni e le vostre sensazioni, è così innocuo? È sensazionalismo? È semplicemente perbenismo? 800 24 00 24 è il perbenismo che ci spinge a puntare il dito contro una forma di linguaggio permeata di una violenza verbale che fino a qualche tempo fa, quando l'anonimato di internet non lo consentiva, non era abituale. Cioè quando poi ci si doveva insultare in mezzo a una piazza prendendo le conseguenze, non si arrivava a questi estremi. Buongiorno Tano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Secondo me non è così innocuo. Velocemente, io non ho un profilo Facebook, non sono un assiduo frequentatore di siti eccetera eccetera, ma non avendo la TV già ormai da quasi 10 anni mi mantengo informato sui siti di informazione. Io sono argentino, vado a vedermi quelli spagnoli, mia moglie è tedesca, va a vedersi quelli in tedesco di vari paesi dove si parla il tedesco eccetera eccetera, e stiamo notando, no, per esempio quando si va a vedere un'intervista su YouTube, i commenti che ci sono sotto, di qualunque tipo di notizia si tratti. Io perlomeno è noto così che la cosa è mondiale, perché non è solo in Italia, e dal Messico in giù, dal Messico sino all'Argentina, i commenti che si fanno dopo qualunque visita che uno faccia a questi siti di informazione è di una caduta degradante del linguaggio in verticale, di una violenza inaudita. E perché penso che non sia così da trascurare? Perché dopo troviamo che questa gente in potenza ha questa violenza e la esprime verbalmente, ma dopo, quando è legittimato a farla, la esprime in atto, nella strada, nel traffico, a scuola, con sua moglie. E purtroppo la cronaca è piena di episodi di rabbia sregolata, come li ha definiti il professor Aquilar. Grazie a Tano che ha chiamato dalla provincia di Treviso. Naturalmente le reazioni anche a quanto dichiarato da Stefano Baleari del PDL a questi microfoni stanno arrivando con i vostri sms, tra pochissimo ne leggeremo alcuni e faremo alcuni resoconti, ma soprattutto ci stiamo chiedendo qual è il registro di questa nuova cultura. È veramente così un nuovo sport, una nuova attività, è uno sfogo, perché spesso questo meccanismo del postare e poi del rimuovere, del dire sono stato frainteso, viene vissuto anche da chi lo pratica come qualcosa di innocente e assolutamente legittimo. Avete visto in questi giorni quante volte sia successo. Di conseguenza c'è una sorta di poca coscienza delle responsabilità, scarsa coscienza degli effetti che può avere su qualcuno che legge e che non si sente più il solo a pensarla in un certo modo. Fiancheggiamento, diceva Aquilar, fiancheggiamento di alcune pratiche che possono poi sfociare in una sorta di terrorismo della vita quotidiana. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. La violenza verbale che fa da sfondo anche a questo successo del 90 dei Depeche Mode, Enjoy the Silence. Beh, forse bisognerebbe staccare la spina e quindi mettersi dalla parte, non da una parte, non dall'altra, semplicemente ergersi a difensori del silenzio. Professor Aquilar, dunque, ha sentito diversi stimoli e diversi spunti. C'è questa sensazione che in realtà non sia poi un luogo così pubblico Facebook o un social network, per cui quello che si può fare lì ha una sorta di autorizzazione implicita ed è ovvio che altrove non si possa fare. È così? C'è una doppia morale? Purtroppo c'è una commistione tra pubblico e privato che è dovuta appunto all'emergere dei social network, alla quale le persone non sono ancora abituate. E c'è, come traspariva anche dagli interventi precedenti, una maggiore difficoltà a controllare l'impulso. Noi siamo, dal punto di vista psicosociale, abbiamo attraversato negli anni 90 una fase nella quale c'era un aumento del narcisismo che diventava quasi la norma, si puntava alla cultura dell'egocentrismo e del narcisismo. In questa fase invece c'è più una struttura mentale simile al disturbo borderline di personalità, cioè gli impulsi vanno immediatamente espressi senza tener presente la conseguenza dell'impulso. Ecco perché bisognerebbe fare dall'altro lato, da parte dei mezzi di comunicazione di massa, un invito alla disciplina interiore sia nel pubblico che nel privato che nel settore intermedio che è costituito dai social network. E gli impulsi però sono più innocenti delle scelte. Gli impulsi possono essere più innocenti delle scelte, ma possono essere anche più colpevoli, tra virgolette, perché d'impulso io posso fare un'azione che meditandoci un minuto in più avrei evitato. No, io lo dico perché questa è una segnalazione che ci arriva anche tramite sms, 349-238-6666. Oh, adesso non si dovrebbe nemmeno più poter dire buonista o perbenista, si lamenta qualcuno. È chiaro che abbiamo la possibilità, il dovere, la libertà di reagire a questa ipocrisia, alcuni la chiamano ipocrisia, dall'altra parte dicono che è un'ipocrisia invece fingere di essere fraintesi e di conseguenza ci si attacca anche con gli stessi termini, da una parte e dall'altra si usa lo stesso tipo di insulto per demolire le ragioni dell'altro. Si vantano di avere 1500 followers e poi fingono di sottovalutare gli effetti dei post fuori luogo. Ci credono sciocchi, dice un ascoltatore, ascoltatrice, chi non si firma, e noi non lo siamo. Dunque è interessante anche questo che ci ha raccontato questo vicepresidente del Consiglio Comunale di Genova, che ha accettato di parlare di questo che è stato per lui un impulso di 22 minuti. Infatti dopo 22 minuti ha deciso di rimuovere il post da quello che comunque, come avete sentito, era il suo profilo privato e non era, secondo Baleari, nemmeno un insulto, ma semmai è stato qualcosa che ha girato su altri social network a effetto virale, è stato ripreso in qualche modo per poi arrivare anche sulle colonne del quotidiano della sua città, cioè di Genova, del secolo XIX, solo perché in agosto mancano tematiche, mancano questioni più serie di cui discutere. C'è questa presa di distanza anche da quanto si è scritto 20 minuti prima, come se avesse quasi una diverse personalità a seconda del momento. Anche questo è una caratteristica tipica della comunicazione via internet. Sentiamo anche voi 800 24 00 24 per le vostre osservazioni e andiamo proprio a Genova. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io sono insegno criminologia Università di Genova e sono molto stimolato dalla discussione, sono in macchina e ho telefonato. Ebbene, un osservatorio interessante il suo, professor Alfredo. Alfredo, sì, Università di Genova, buongiorno. Sì. Allora, io credo che il discorso sia molto interessante. Io ho una voce parzialmente dissenziente rispetto a quello che dice il vostro esperto. Sono psicologo, psicoterapeuta anch'io, faccio lo psicoterapeuta psicoanalitico e ritengo che recentemente poi sono venuti fuori anche a livello teorico delle impostazioni che sono abbastanza favorevoli a una concezione del sé come non più integrato, come non più assolutamente coeso, ma diciamo si parla di sé multipli. E ben capisco il vicepresidente del Consiglio Comunale, mio conterraneo, che ha esternato questa roba per poi tornare indietro, perché il nostro mondo è un mondo fatto di impulsi per cui si pensano le cose e poi si torna indietro. E questo ci introduce la dimensione tragica con cui discutiamo sempre questi aspetti e anche la mediazione. Io tra l'altro sono amico di Adolfo Ceretti, che è un collega di Milano che ha introdotto la mediazione in campo penale. E proprio la dimensione tragica dell'incontro tra autore e vittima che fa tenere insieme nella mente tanti aspetti. L'incontro allora tra vittima e? Vittima e autore, autore del reato. Certamente, sì, esperienze poco diffuse in Italia, molto più diffuse all'estero, che sono molto utili perché si tiene dentro di sé la discordanza degli impulsi di cui parlava il collega che citava giustamente il disturbo borderline di personalità. Senta, professore, visto che lei è un criminologo, ma secondo lei quando ci si posta uno contro l'altro, diciamo anche insultandosi, l'altro ecco, ha la possibilità di replica, questo è un incontro tra persecutore e vittima? Può darsi, sicuramente l'importante è che non si passi all'atto e che il verbale rimanga verbale, perché la violenza verbale è terrificante e dannosa quando diventa un'ideologia che permette gli atti, gli agiti, delinquenti. Rispetto a questo, la postmodernità, secondo me, ma questa è un'opinione molto personale, non è tanto male. Se ci ricordiamo che la modernità, quella in cui le cose erano nascoste e non erano esternate su internet, è vero che adesso abbiamo il problema opposto, ma la modernità era peggio, secondo lei. Ha prodotto milioni di morti, io questo lo dico sempre agli studenti, ha prodotto 30 milioni di morti 60 anni fa. Il nazismo, il fascismo, lo stalinismo. Quindi meglio sfogarsi, avere una sorta di valvola di sfogo? Non dico questo. Il dibattito su media e criminalità e sull'induzione da parte della visibilità mediatica dei comportamenti aggressivi è un dibattito che ancora non è risolto a livello scientifico. Abbiamo ricerche che dicono che l'aggressività espressa aumenta l'aggressività in chi la ascolta, per esempio la visione di trasmissioni televisive violente, abbiamo ricerche di altro genere, sicuramente da qualche parte c'è l'idea che esprimere l'aggressività possa essere molto graduato, può essere soltanto una veemenza a livello così verbale o può essere invece un qualche cosa che trascende, sicuramente va condannata. Il rischio è che però noi condanniamo i media in realtà i media non fanno altro che prendere e sottolineare quello che a noi sta a cuore, altrimenti non venderebbero. Insomma, il discorso è molto complesso e molto tragico. E molto nuovo, come sottolinea lei, per cui dal punto di vista scientifico risultati, indagini e ricerche ancora non sono arrivate a un verdetto, diciamo così, a una sentenza a sciogliere questa situazione. Grazie, grazie al professore Alfredo, ci ha chiamato da Genova, è un criminologo dell'università, con noi anche la professoressa Laura Boella, che invece insegna non criminologia ma filosofia morale all'Università degli Studi Milano. E sarà lei, professoressa Boella, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Sarà ospite il 1 settembre al Festival della Mente di Sarzana e la sua conferenza ha un titolo decisamente interessante: Empatia e compassione. Cioè, queste sono, secondo il titolo della sua conferenza, delle risorse per un mondo a rischio. Sono delle risorse l'empatia e sono delle risorse la compassione che secondo alcuni sono giudicate troppo deboli rispetto ai conflitti che dovrebbero sanare. È una lotta impari. Sì, in fondo si pensa, appunto, prima parlavate di buonismo, di benpensanti, e ci sono molti che ritengono che l'empatia sia un lusso, per esempio, di chi ha lavoro, di chi non ha il problema della sopravvivenza, o sia una roba da santi o da papi, no? Si parla infatti di empatia molto per Papa Bergoglio. In realtà c'è tutto quanto avete discusso, tiene dentro enormemente l'empatia, cioè l'empatia sta proprio al centro delle contraddizioni della nostra società, dell'uso del linguaggio come un'arma violenta e anche proprio del disordine emotivo che è già stato più volte insomma richiamato, cioè dell'analfabetismo emotivo, perché a me sembra che chi dice io su Facebook posto una sciocchezza e poi insomma questa è una roba privata, tipo io mi tolgo il doppio petto che uso fuori casa e in casa metto i piedi sul tavolo, ecco, questo è in fondo un analfabetismo sia emotivo che relazionale. L'empatia effettivamente sta proprio al centro di questa contraddizione, ma soprattutto anche per il fatto che il web, cioè tutti i social network, la comunicazione in rete, sembrerebbe essere un potentissimo strumento per metterci in rapporto con gli altri e anche per permetterci di condividere le esperienze altrui. Cioè nel web, e a volte succede, ce lo conferma. Un insulto, però spesso ed è documentato attraverso Twitter, eccetera, c'è la condivisione, la partecipazione ai dolori, alle gioie degli altri. C'è anche un tipo di comunicazione molto intima. Voi avete parlato di insulti più o meno semi o latentemente razzisti, ma pensiamo anche a tutta la comunicazione intima, erotica che avviene sul web e che peraltro sta segnando fortemente, per esempio, la sessualità dei giovani e anche dei meno giovani. Ecco, citerei il caso del candidato sindaco di New York, no? Anche lì non è tanto il problema dell'assaggio all'atto, di cui si parlava prima, cioè che è controverso, è vero che è controverso il fatto che esprimersi in termini di violenza, propagare termini violenti poi possa portare a comportamenti aggressivi. Spesso il web non implica il passaggio all'atto nel chat erotici, non si passa all'atto, ma quello è, diciamo, una intensificazione della rozzezza sentimentale ed emotiva, per cui un marito pensa persino a non aver tradito la moglie, anche se ha avuto degli scambi di foto molto intimi con altre donne online. Allora, il problema qui è molto importante e credo che a questo punto dobbiamo prendere atto della convivenza di contrari, cioè di cose veramente molto opposte, positive e negative in rete, e a quel punto porci come questione urgente quella dell'educazione all'empatia. Quindi lei dice possiamo imparare a essere empatici. Ecco, infatti. Ma perché è importante? Prendendo atto di questa realtà molto contraddittoria che, degli strumenti di comunicazione e della comunicazione globale in cui siamo tutti immersi, no? Che lo vogliamo o no, non lo vogliamo, allora prendendo atto di questo lo dobbiamo anche renderci conto che bisogna saperla gestire e questo non è un compito assolutamente facile, proprio perché, e questo insomma si sa in fondo a partire da Darwin, che l'empatia è fondamentale per la convivenza, è fondamentale per sentirsi partecipi di un destino comune. Oggi è un destino comune che non unisce solo la specie umana, ma persino il destino del pianeta, no? Cioè l'empatia è anche ecologicamente fondamentale perché noi dobbiamo prenderci cura anche dell'ambiente in cui noi viviamo, dell'aria in cui respireranno i nostri nipoti e pronipoti. Allora questo è un valore vitale per la sopravvivenza della nostra civiltà e anche per il benessere. E come si trasmette questa empatia? Come possiamo educarci a essere empatici? Perché finora si sono additate le responsabilità delle singole persone, di chi ricopre una carica istituzionale, oppure degli organi di stampa, dei media in generale. Come si può avere esperienze sull'altro quando si parte da posizioni ingiuriose? Per esempio, questa è la situazione di cui stiamo parlando oggi. Si comincia con l'insulto, si parte da situazioni e da posizioni polarizzate, proprio agli estremi, agli opposti. L'avvicinamento, secondo lei, è possibile? Ma ce lo dice tra pochissimo. Professoressa, la devo fermare perché dobbiamo controllare la situazione del traffico e poi torneremo con la professoressa Laura Bella, docente di filosofia morale all'Università degli Studi di Milano. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 9:47, l'impunità assicurata da internet, la sintesi dei caratteri di Twitter, il risultato spesso e non sempre, quindi giustamente la professoressa Boella segnalava anche quelle situazioni molto diffuse di vicinanza, di empatia in cui si utilizza il web, Facebook o altri social network per stare vicino a persone che altrimenti anche fisicamente sarebbero irraggiungibili, quindi esperienze anche positive che vanno raccontate, sottolineate, che esistono. Però ci si chiedeva oggi perché tanto odio, perché tanto livore, perché tanta veemenza in questi post, anche sugli argomenti più innocenti. Attenzione, poi ci andremo con uno dei moderatori di Wikipedia, oggi nostro ospite, anche sulle voci più lontane da quello che può suscitare, non so, un'appartenenza, un'adesione di stampo ideologico, le più lontane dalla politica, le più lontane dallo sport, dal calcio, altro elemento decisamente viscerale, anche sulla cosa più la tinteggiatura della parete del bagno si possono scatenare delle guerre verbali che solo in quest'epoca e solo con queste modalità si erano viste. Torniamo alla professoressa Boella perché abbiamo lasciato un interrogativo in sospeso. Dica, professoressa. Parlava appunto di educazione all'empatia, cioè di gestire una capacità umana, peraltro oggi che sappiamo benissimo anche cablata nel cervello, di cui si conoscono i circuiti cerebrali, e che però è molto difficile da gestire, soprattutto in una società globale e complessa come la nostra. Allora, io penso che l'insulto, l'ingiuria o questa, diciamo, espressione immediata, fulminea delle proprie emozioni anche più diverse nel web sia qualcosa rispetto a cui noi dobbiamo prendere in un certo senso il controllo, cioè dobbiamo conoscere anche quella parte, prima si parlava di un segno di noi, certo, quindi di quella parte di noi stessi che qualche volta le spara grosse. Ora, l'empatia è qualcosa che ci può aiutare, cioè conoscere e praticare l'empatia ci può aiutare proprio anche a regolare e modulare le nostre emozioni. Noi viviamo in un mondo che sembra iper razionale, tutto basato sul calcolo, iper sofisticato, in realtà poi è un mondo in cui esplodono le emozioni, che vuol dire anche che bisogna regolarle. E di fronte per esempio a avvenimenti tipo una persona diversa, ecco che l'emozione può scattare, una persona di cui non conosciamo storia, lingua, tradizione. O ne conosciamo solo alcuni aspetti. Può scattare una reazione di paura nei confronti del diverso, nei confronti della sua differenza, modo di vivere, modo per esempio relazioni, rapporti con le donne, eccetera. Allora io è proprio lì, credo, che bisogna lavorare, nel senso che invece di affidarsi alla velocità della comunicazione in rete e anche alla povertà del linguaggio, bisogna andare a imparare il linguaggio vero e proprio dell'empatia, e le parole dell'empatia e anche i movimenti corporei, mentali dell'empatia. E dov'è che lì si possono imparare? Qui io credo che giochi un ruolo fondamentale l'educazione umanistica, ma intesa in senso più letterale, cioè leggere, la lettura per esempio, che richiede pazienza, tempo, concentrazione e attenzione, di un testo. Ora, umanistica, l'aggettivo di che cosa parla? Parla dell'umano. È chiaro, grazie, grazie intanto per questa indicazione pratica, perché è un'indicazione pragmatica. Sì, l'istinto, sì, l'ho schizzato con veemenza postato qualcosa che accende gli animi, suscita indignazione, gli risponde per stare nelle categorie identificate sul web, l'energumeno, con una rabbia ancora maggiore, e si introduce nella conversazione quello suscettibile, arriva poi il noioso, non si va da nessuna parte, attenzione, ci dice la professoressa di filosofia morale, il momento poi dell'approfondimento, il momento della lettura e della conoscenza della tematica che abbiamo affrontato così semplicemente sulla scia di un'emozione e di un istinto veloce, da una parte la velocità, dall'altra parte la lentezza. Le vostre opinioni, stavo per dire velocemente, mi sono censurata, le vostre opinioni con sintesi, esprimiamole con estrema sintesi per dare la possibilità anche ad altri di parlare. Comincerei con Maria, che attende da molto. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei. Sì, buongiorno Maria, dica. Allora, la mia riflessione si riferiva al fatto che su alcuni mezzi, su alcuni social network, ad esempio su Twitter, la sintesi dei 140 caratteri spesso permette di simulare una competenza su tematiche sulle quali in realtà le persone hanno semplicemente letto qualcosa da Wikipedia, per cui questo può ingenerare una arroganza rispetto a persone che oggettivamente questa competenza l'hanno nutrita in modalità sistematica nel corso degli anni con approfondimenti di studio adatti. E quindi c'è un altro elemento, l'accesso a una miriade di informazioni dà anche la sensazione di avere la verità in tasca, di poterne parlare con certi toni. È diciamo l'accesso facile e soprattutto il fatto che non la limitatezza dei caratteri, in questo caso mi riferisco allo strumento Twitter, non permette appunto l'evanescenza, permette un meccanismo di fuga, permette una simulazione che fino a 140 caratteri sono tutti economisti e facevano la scuola con Zingale e poi improvvisamente di economisti non ce n'è più nessuno. Grazie, quindi, grazie. Scusi, ho un altro intervento per quanto riguarda Maria, la velocissima, sì. Volevo semplicemente evidenziare che avete comunque una persona aggressiva in Radio 24, il caso Poernano, hashtag Poernano, che su Twitter è ricercabilissimo e anche su internet, si riferisce alla Santo Nocito che il 29 ottobre ha insultato me e altre persone e che ci siamo rivolte con gentilezza a lei. Ecco, la casistica è rintracciabile su internet, però sarebbe interessante un confronto con Rosanna Santo Nocito, perché effettivamente ha insultato un'intera provincia dicendo che a Brescia arrivano soltanto reality happy hour, che 4 persone laureate sono ragazzetti rozzi ed ignoranti, che io che ho anche un master devo studiare e che una persona che ha soltanto 700 follower non è degna di parlare con lei. Perché va bene, va bene, okay. Ho capito. Maria, diciamo, l'avete in casa, naturalmente, ecco. No, ma si figuri, fosse solo lei ha dettato una persona. Credo che questo intervento anche della professoressa di filosofia morale ha messo il dito nella piaga. Non è che noi l'abbiamo in casa, ognuno di noi ha una parte di veemenza, violenza, che si sfoga liberamente dietro le possibilità offerte dalla rete e dall'anonimato, e spesso sono persone insospettabili. Stiamo usando il noi quando parliamo oggi di questa tipologia, non solo psicologica, no? Ma indotta anche da certe situazioni, da certe possibilità tecnologiche. Stiamo usando il noi proprio perché, come avete sentito, anche in casi ben più autorevoli, c'è la possibilità di affermare una cosa e poi tirarsi indietro, postare una cosa e poi rimuovere il post, e ci si autoassolve in qualche modo. Ma per un momento, mentre si scriveva, si aveva la sensazione, e quello forse è il grande pericolo, di essere nel giusto. Si aveva ragione in quel momento, per quello non si è fermato il dito. E lei, moderatore di Wikipedia, Nicolò Caranti, lo sa bene. Quali sono i casi che hanno suscitato la maggiore veemenza o violenza, molto lontani anche dalla politica e dallo sport, di cui parlavamo prima? Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, beh sì, parlando di Rebecca Black, per esempio, che hai citato prima, è questa cantante che certamente non ha una voce angelica, diciamo, qualcuno per esempio aveva scritto nella voce proprio su di lei, è stato eliminato tutto, ha scritto in inglese, quindi traduco, Rebecca Black ha la voce della pipì di cane, per esempio. Queste poi sono cose sì, che compaiono immediatamente. E altri aggettivi che vengono utilizzati con estrema disinvoltura scompaiono forse dopo, però intanto il messaggio è stato mandato, ma è proprio necessario, e poi è così innocuo. Interrogativo ancora aperto, alcune risposte abbiamo provato a darle, il tema non è stato esaurito naturalmente nel corso di questa ora o poco meno di trasmissione. Possiamo continuare a ricevere i vostri stimoli e osservazioni, però ora ci fermiamo. Un saluto da Irene Zerbini.